Ad alta voce. Marco Foschi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Nella baraonda degli ultimi anni, Ursula aveva avuto a disposizione scarsissime pause per dedicarsi all'educazione papale di José Arcadio, finché giunse il momento che questi dovette essere preparato in fretta e furia per andare in seminario. Meme, sua sorella, divisa tra la rigidità di Fernanda e le amarezze di Amaranta, arrivò quasi contemporaneamente all'età prevista per il suo ingresso nel collegio di suore, dove avrebbero fatto di lei una virtuosa del clavicembalo. Ursula si sentiva tormentata da gravi dubbi circa l'efficacia dei metodi coi quali aveva forgiato lo spirito del languido apprendista a sommo pontefice, ma non dava la colpa né alla sua tentennante vecchiaia né alle ombre che le permettevano appena di distinguere il contorno delle cose, bensì a qualcosa che lei stessa non riusciva a definire, ma che concepiva confusamente come un progressivo logorio del tempo. Gli anni adesso non vengono più come quelli di prima, usava dire, sentendo che la realtà quotidiana le sfuggiva dalle mani. Prima, pensava, i bambini ci mettevano molto a crescere. Bastava ricordare tutto il tempo che c'era voluto perché José Arcadio, il maggiore, se ne andasse con gli zingari, e il tempo che era occorso prima che tornasse variegato come un serpente con quel suo gergo da astronomo, e le cose che erano successe nella casa prima che Amaranta e Arcadio dimenticassero la lingua degli indios e imparassero lo spagnolo, e tutto il brutto e il bel tempo che aveva sopportato il povero José Arcadio Buendía sotto il castagno, e quanto si era dovuta piangere la sua morte prima che riportassero moribondo un colonnello a Aureliano Buendía che, dopo tutte quelle guerre e dopo tutte quelle sofferenze sopportate per lui, non aveva ancora 50 anni. In altri tempi, dopo aver passato tutto il giorno a fabbricare animaletti di caramello, le avanzava ancora il tempo per occuparsi dei bambini, per vedere dal bianco dei loro occhi quando avevano bisogno di una pozione di olio di ricino. Invece ora, che non aveva niente da fare e che girava da mattina a sera con José Arcadio a cavalluccio, la scadente qualità dei tempi l'aveva costretta a lasciare le cose a metà. La verità era che Ursula si ostinava a non invecchiare anche quando aveva ormai perduto il conto dei suoi anni ed era sempre tra i piedi e cercava di mischiarsi in ogni cosa e molestava i forestieri col solito ritornello se per caso non le avessero lasciato in casa durante la guerra un San Giuseppe di gesso perché glielo conservasse finché smetteva di piovere. Nessuno seppe con precisione quando cominciò a perdere la vista. Perfino nei suoi ultimi anni, quando ormai non poteva alzarsi dal letto, sembrava semplicemente vinta dalla decrepitezza, ma nessuno poteva immaginarsi che fosse cieca. Lei se n'era accorta fin da prima della nascita di José Arcadio. Sulle prime aveva creduto trattarsi di una debolezza transitoria e di nascosto beveva sciroppo di midollo e si metteva miele d'api negli occhi, ma ben presto si andò convincendo che si inabissava senza rimedio nelle tenebre, fino al punto che non riuscì mai a farsi un concetto ben chiaro della invenzione della luce elettrica, perché quando installarono le prime lampadine riusciva solo a distinguere un barlume. Non lo disse a nessuno, perché sarebbe stato un riconoscimento pubblico della sua inutilità. Si ostinò a imparare in silenzio la distanza delle cose e delle voci della gente, per continuare a vedere con la memoria, quando non gliel'avessero più permesso le ombre della cataratta. Più tardi avrebbe scoperto l'aiuto imprevisto degli odori, che si definivano nel buio con una forza molto più convincente che non i volumi e i colori, e la salvarono definitivamente dalla vergogna di una rinuncia. Nel buio della stanza poteva infilare un ago e cucire un'asola e sapeva quando il latte era sul punto di bollire. Imparò con tanta sicurezza il luogo dove si trovava ogni cosa che lei stessa si dimenticava certe volte di essere cieca. Una volta Fernanda mise a soqquadro tutta la casa perché aveva perduto la sua fede matrimoniale e Ursula la trovò su uno scaffale della stanza dei bambini. Semplicemente perché, mentre gli altri giravano dappertutto senza preoccuparsi, lei li sorvegliava coi suoi quattro sensi in modo da non farsi cogliere di sorpresa. E dopo un certo tempo scoprì che ogni membro della famiglia ripeteva tutti i giorni, senza rendersene conto, gli stessi percorsi, le stesse azioni, e che ripeteva quasi le stesse parole alla stessa ora. Solo quando si scostavano da quelle meticolose abitudini correvano il rischio di perdere qualcosa, di modo che, quando sentì la costernazione di Fernanda per aver perduto l'anello, Ursula si ricordò che l'unica cosa diversa fatta in quel giorno era stata quella di dare aria alle stuoie dei bambini, perché Meme aveva scoperto una cimice la notte prima. Dato che i bambini avevano assistito all'operazione, Ursula pensò che Fernanda doveva aver messo l'anello nell'unico luogo dove i suoi figlioli non avrebbero potuto raggiungerlo: lo scaffale. Fernanda invece lo aveva cercato unicamente lungo il suo itinerario quotidiano, senza sapere che la ricerca delle cose perdute è intorpidita dai gesti consuetudinari ed è per questo che costa tanta fatica trovarle. L'allevamento di José Arcadio aiutò Ursula nella spossante missione di mantenersi al corrente dei minimi cambiamenti della casa. Quando si rendeva conto che Amaranta stava vestendo i santi nella stanza da letto, fingeva di insegnare al bambino le differenze dei colori. «Vediamo un po', gli diceva, dimmi di che colore è vestito San Raffaele Arcangelo». In quel modo il bambino le dava l'informazione che le negavano i suoi occhi. E molto prima che partisse per il seminario, Ursula poté già distinguere dalla grana del tessuto i vari colori dei vestiti dei santi. Certe volte accadevano degli incidenti imprevisti. Un pomeriggio Amaranta stava ricamando sotto il portico delle begonie e Ursula la intoppò. «Per l'amor di Dio!» protestò Amaranta. «Stia attenta dove va!» «Sei tu», disse Ursula, «che sei seduta dove non dovresti stare». Per lei era vero, ma da quel giorno cominciò ad accorgersi di qualcosa che nessuno aveva scoperto, e cioè che col trascorrere dell'anno il sole andava impercettibilmente cambiando di posizione e coloro che sedevano sotto il portico erano costretti istintivamente a cambiare di posto a poco. Da quel momento Ursula non doveva far altro che ricordarsi della data per sapere il luogo esatto dove era seduta Amaranta. Benché il tremito delle mani fosse sempre più percepibile e non potesse sopportare i piedi pesanti, non si vide mai come allora la sua minuscola figurina in tanti posti nel medesimo tempo. Era attiva quasi quanto al tempo in cui sopportava l'intero peso della casa. Tuttavia, nella impenetrabile solitudine della decrepitezza, dispose di una tale chiaroveggenza per esaminare perfino i più insignificanti avvenimenti della famiglia, che per la prima volta vide con chiarezza le verità che le sue occupazioni di altri tempi le avevano impedito di vedere. Verso l'epoca nella quale preparavano l'entrata in seminario di José Arcadio, era già riuscita a fare una ricapitolazione infinitesimale della vita domestica a partire dalla fondazione di Macondo e a cambiare radicalmente l'opinione che aveva sempre avuto dei suoi discendenti. Si rese conto che il colonnello Aureliano Buendía non aveva perso il suo affetto per la famiglia a causa della durezza della guerra, come lei credeva, ma che in realtà egli non aveva mai voluto bene a nessuno, nemmeno a sua moglie Remedios o alle innumerevoli donne di una notte che erano passate per la sua vita, e tantomeno ai suoi figli. Intuì che egli non aveva fatto tante guerre per idealismo come tutti credevano, né aveva rinunciato per stanchezza alla vittoria imminente come tutti credevano, ma che aveva vinto e perso per lo stesso motivo, per pura e peccaminosa superbia. Arrivò alla conclusione che quel figlio per il quale lei avrebbe dato la vita era semplicemente un uomo interdetto all'amore. Una notte, quando lo portava nel ventre, lo aveva sentito piangere. Era un lamento così palese che José Arcadio Buendía, che le dormiva accanto, si svegliò e si rallegrò all'idea che il figlio sarebbe stato ventriloquo. Lei invece rabbrividì per la certezza che quel bramito profondo era un primo indizio della temibile coda di maiale e pregò Dio che le facesse morire la creatura nel ventre. Ma la lucidità della decrepitezza le permise di sapere, e poi lo ripeté parecchie volte, che il pianto dei bambini nel ventre della madre non è né un annuncio di ventriloquia né di facoltà divinatoria, bensì un segno inequivocabile dell'interdizione all'amore. Quella svalorizzazione dell'immagine del figlio le suscitò di colpo tutta la compassione di cui gli era debitrice. Amaranta, invece, la cui durezza di cuore la spaventava, la cui concreta amarezza la amareggiava, le si rivelò in ultima analisi come la donna più tenera che fosse mai esistita, e comprese con una compassionevole chiaroveggenza che gli ingiusti tormenti ai quali aveva sottoposto Pietro Crespi non erano dettati da una volontà di vendetta, come tutti credevano, né il lento martirio col quale aveva frustrato la vita del colonnello Gerineldo Marquez era stato determinato dal fiele della sua amarezza, come tutti credevano, ma che l'una e l'altra azione erano state una lotta a morte tra un amore smisurato e una codardia invincibile, e finalmente aveva trionfato il timore irrazionale che Amaranta aveva avuto sempre per il proprio tormentato cuore. Fu in quell'epoca che Ursula cominciò a parlare di Rebecca, a rievocarla con un vecchio affetto esaltato dal pentimento tardivo e dall'ammirazione repentina, perché aveva capito che soltanto lei, Rebecca, quella che mai si era alimentata del suo latte, ma della terra e della calce dei muri, quella che non portava nelle vene sangue delle sue vene, ma il sangue sconosciuto degli sconosciuti, le cui ossa continuavano a chioccare nella tomba, Rebecca, quella dal cuore impaziente, quella dal ventre insaziabile, era l'unica che aveva avuto il coraggio, senza inibizioni, che Ursula aveva desiderato per la sua stirpe. Rebecca, diceva, tastando le pareti, che ingiusti siamo stati con te. Nella casa credevano semplicemente che farneticasse, soprattutto da quando le era venuto il ghiribizzo di girare col braccio destro alzato, come l'arcangelo Gabriele. Fernanda si rese conto, tuttavia, che c'era un sole di chiaroveggenza nelle ombre di quel farnetico, perché Ursula poteva dire senza esitazione quanto denaro si era speso in casa nell'ultimo anno. Amaranta ebbe un sospetto simile un certo giorno in cui sua madre mescolava nella cucina una pentola di minestra e disse improvvisamente, senza sapere che la stavano sentendo, che il macinino per il Gran Turco comprato dai primi zingari e scomparso fin da prima che José Arcadio gli facesse fare 65 volte il giro del mondo, stava sempre in casa di Pilar Ternera. Quasi centenaria anche lei, ma sana e agile, nonostante l'inconcepibile grassezza che spaventava i bambini, come in altri tempi la sua risata spaventava le colombe, Pilar Ternera non si meravigliò dell'azzecco di Ursula, perché la sua stessa esperienza cominciava a farle capire che una vecchiaia vigile può essere più divinatoria della lettura delle carte. Tuttavia, quando Ursula si rese conto che non le era bastato il tempo per consolidare la vocazione di José Arcadio, si lasciò stordire dalla costernazione. Cominciò a commettere errori, cercando di vedere con gli occhi le cose che l'intuizione le permetteva di vedere con maggior chiarezza. Una mattina rovesciò sulla testa del bambino il contenuto di un calamaio, credendo che fosse acqua di lavanda. Provocò così tanti inciampi per l'ostinazione di intervenire in ogni cosa, che si sentì scombussolata da raffiche di malumore e cercava di liberarsi dalle tenebre che implacabilmente la stavano irretendo come in un camice di ragnatele. Fu allora che le venne in mente che la sua goffaggine non era la prima vittoria della decrepitezza e del buio, ma un errore del tempo. Pensava che prima, quando Dio non faceva coi mesi e con gli anni gli stessi imbrogli che facevano i turchi misurando un metro di percalle, le cose erano diverse. Ora non soltanto i bambini crescevano molto più in fretta, ma anche gli stessi sentimenti avevano un'evoluzione diversa. Remedios, la bella, era appena salita in cielo, in corpo e anima, e già la sconsiderata Fernanda andava borbottando negli angoli perché si era portata via le lenzuola. Non si erano ancora raffreddati i corpi degli aureliani nelle loro tombe e già Aureliano II aveva di nuovo la casa piena di luci ed ubriachi che suonavano la fisarmonica e facevano il bagno nello champagne come se non fossero morti cristiani, ma cani. È come se quella casa di pazzi, che così tanti dolori di capo e tanti animaletti da caramello era costata, fosse predestinata a trasformarsi in un mondezzaio di perdizione. Ricordando queste cose, mentre preparavano il baule di José Arcadio, Ursula si chiedeva se non era forse meglio sdraiarsi una buona volta nella tomba e che le gettassero sopra la terra. E chiedeva a Dio, senza timore, se credeva davvero che la gente fosse fatta di ferro per poter sopportare tante pene e mortificazioni. E chiedendo, andava attizzando la sua stessa esacerbazione e sentiva un'irreprimibile voglia di lasciarsi andare a imprecare come un forestiero e di concedersi finalmente un istante di ribellione. L'istante tante volte anelato, tante volte rimandato, di mettersi la rassegnazione nei fondelli e mandare una buona volta tutto in merda e togliersi dal cuore le infinite montagne di parolacce che aveva dovuto trangugiare in tutto un secolo di sopportazione. Accidenti! Gridò. Amaranta, che cominciava a mettere la roba nel baule, credette che l'avesse punta uno scorpione. Dov'è? Dov'è? Chiese spaventata. Cosa? La bestia, spiegò Amaranta. Ursula si mise un dito sul cuore. Qui, disse. Un giovedì, alle 2 del pomeriggio, José Arcadio partì per il seminario. Ursula lo avrebbe ricordato sempre come lo immaginò nel momento dell'addio, languido e serio, con gli occhi asciutti, come lei gli aveva insegnato, boccheggiante per il caldo nel vestito di velluto verde coi bottoni di rame e con un fiocco inamidato al collo. lasciò la stanza da pranzo impregnata dalla penetrante fragranza di acqua di lavanda che lei gli versava in testa per poter seguire le sue tracce per casa. Per tutta la durata del pranzo d'addio, la famiglia dissimulò il nervosismo con espressione di giubilo e accolse con esagerato entusiasmo le sortite di padre Antonio Isabel. Ma quando tolsero il baule foderato di velluto con gli spigoli d'argento, fu come se avessero portato via dalla casa una bara. L'unico che si rifiutò di partecipare al commiato fu il colonnello Aureliano Buendía. «Questa era l'unica baggianata che ci mancava!» borbottò. «Un papa!»